berdosa, sungguh berdosa. Cuma Thank you. cinta, melodi melodi, melodi cinta, melodi melodi, melodi cinta, melodi melodi, melodi cinta. Bye. Thank you. kau tak.